Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 27 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.14 e tramonterà alle 17.30. Mercoledì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monello. Continuano gli approfondimenti di vita nei campi nei vari settori dell'agricoltura della nostra regione. Oggi il professor Raffaele Testolin illustra potenzialità e tecniche per la coltivazione del nocciolo, coltura che sta prendendo sempre più piede anche da noi. Per la rubrica del bio, le contromisure per contrastare la crescita del prezzo dei fertilizzanti. Una soluzione è quella di coltivare azoto seminando trifoglie assieme al frumento. A seguire il passaggio cruciale della fermentazione dei mosti per diventare vino, con una nota sull'arricchimento. Se volete avere buoni risultati in orto, dovete sempre scegliere la qualità degli esemplari da trepiantare. Utili consigli oggi nella nostra rubrica dedicata. Si parla di un dolce di stagione nello spazio della gastronomia, ovviamente i crostoli. A conclusione della puntata, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, con una breve nota di climatologia locale, e il proverbio friulano della settimana. Continua il nostro percorso nella frutticoltura professionale sulle potenzialità del settore nella nostra regione. Il professor Raffaele Testolin oggi ci parla della coltivazione del nocciolo, che in regione sta avanzando con buoni risultati. Ogni tanto qualcuno mi chiede se il nocciolo viene bene in Friuli. Mi viene da chiedere all'interlocutore, non dirmi che non hai mai visto una pianta di nocciolo. È una specie spontanea dal monte alla pianura, e il Friuli è pieno di piante di nocciolo. Quindi il nocciolo in Friuli sta bene. Punto. Peccato che il nocciolo spontaneo produca poco e produca frutti di scarso valore, a parte qualche pianta che forse varrebbe la pena di segnalare ai tecnici dell'ERCA. Che il nocciolo è una coltura interessante perché è relativamente facile, richiede pochi investimenti e poca manodopera. Per contro, da redditi non elevati, parliamo di 8.000 euro lordi ad ettaro in piena produzione che si ottiene a partire dal quinto anno. Non sono cifre da capogiro, ma sempre meglio del mais. In regione ci sono già alcune centinaia di ettari industriali e vengono messi a dimora continuamente nuovi impianti anche in questi giorni. Ecco le cose più importanti da sapere. Partiamo allora dalle varietà. Le varietà buone si contano sulle dita di una mano e non si può sbagliare. Si chiamano tonda gentile romana, tonda di Giffoni, nocchione e tonda francescana, nuova, interessante, ma difficile da trovare. Ce n'è qualche altra, la tonda gentile delle Langhe è anch'essa bella e richiesta dal mercato, ma produce un po' meno delle altre. Le varietà sono autoincompatibili e se fate un impianto di nocciolo monovarietale, cioè con una singola varietà, non produrrete una nocciola, a meno che il vento non vi faccia la grazia di portare nel vostro impianto un po' di polline da piante di nocciolo selvatiche presenti casualmente in zona. Quindi si piantano almeno due varietà diverse. Tutte le combinazioni vanno bene, ad eccezione di tonda gentina delle Langhe e tonda di Giffoni. Produrreste frutti solamente su quest'ultima. E per trovare le piante? Non posso fare pubblicità a nessun vivaista, ma certamente non si va da vivaisti improvvisati. Uomo o donna avvisati, mezzi salvati. Prima di ordinare le piante è utile sapere che tutte le varietà di nocciolo producono molti polloni a partire dalle radici. L'eliminazione di questi polloni è una delle operazioni più costose ed è meglio evitare di eliminare i polloni con l'uso di diserbanti. Ricordo che abbiamo tutti l'obbligo di rispettare l'ambiente. Ci viene in aiuto il nocciolo di Costantinopoli, spontaneo in tutta l'ex Jugoslavia fino in Turchia e oltre. È una specie diversa dal nocciolo che coltiviamo, anche se gli assomiglia molto. In latino si chiama Corylus colurna. I frutti non sono pregiati, ma la pianta non produce polloni e viene usata sempre più spesso come portinnesto. Se ordinate le varietà innestate su colurna, vi togliete per tutta la vita il problema dell'eliminazione dei polloni E credetemi, non è poca cosa, anzi è un risparmio notevole di tempo e denaro, visto che un impianto di nocciolo può durare 50 anni e oltre. Passiamo allora all'impianto. Si pianta a 6 metri tra le file e 4-5 metri sulla fila. I conti delle piante per ettaro sono presto fatti. Ad ogni posta si mette a dimora una pianta e una sola. Attenzione alle sirene che propongono 2-3 piante per posta. Sono vivaisti improvvisati e disonesti. Durante l'inverno si mettono a dimora piante a radice nuda, mentre le piante in vaso permettono di piantare anche più tardi, fino a giugno. Ricordate tuttavia che prima piantate, meglio si sviluppa la pianta il primo anno e prima l'impianto inizia a produrre. Qualche consiglio per la gestione dell'impianto. Il nocciolo resiste bene al secco, ma negli impianti industriali è utile prevedere un impianto di irrigazione, magari di subirrigazioni con le ali gocciolanti interrate. Se non si è esperti, è bene affidarsi a un tecnico competente che fornisca un po' di consulenza all'impianto e soprattutto aiuti nel controllo delle malattie e degli insetti dannosi. Gli insetti dannosi non sono tanti, ma bisogna conoscerli e sapere come contrastarli, altrimenti potreste trovarvi al momento della vendita delle nocciole con percentuali elevate di scarto, tecnicamente si chiama cimiciato, cioè frutti non vendibili perché attaccati dalle cimici. Un trattamento con zolfo ventilato ad aprile per controllare gli eriofidi è un buon inizio. Se poi, prima di iniziare i trattamenti a fine inverno, effettuate il frappage, controllate sul web cosa vuol dire, dimostrate di essere dei professionisti. Il prezzo dell'urea sale. Seminiamo trifoglio nel nostro frumento e coltiviamoci l'azoto. Un titolo, un programma per la rubrica del bio di Cristina Micheloni. Urea a 75 euro al quintale, nitrato ammonico 61 euro al quintale. Sono tanti, sono pochi, tutto è relativo. Ma lo scorso anno ne costavano 35 e 22 di euro rispettivamente, quindi metà e un terzo. Le cause sono il costo dell'energia, dei trasporti, gli accaparramenti dei soliti stati che comprensibilmente pensano prima al proprio fabbisogno interno e ovviamente delle speculazioni. Sta di fatto che ora che si deve pensare alle concimazioni di copertura dei cereali autunno-vernini, ovvero dare il nitrato ammonico al frumento, è una spesa non indifferente per gli agricoltori convenzionali. E i biologici? Anche i fertilizzanti organici vedono i prezzi salire, soprattutto a causa del costo dei trasporti, dell'energia, sempre energia, di energia hanno bisogno, e per le immancabili speculazioni. Però, come da refrain, fare bio non significa sostituire la chimica con qualcosa di naturale, ma ripensare il sistema e costruirlo a misura delle risorse locali e con un occhio lungo, come ogni azione dei sistemi ecologici e agroecologici richiederebbe. E se di azoto parliamo, una vera alternativa è coltivarselo, ovvero usare quel 78% di cui l'aria è composta e farlo fissare, in forme utilizzabili dalle piante, da chi ne è capace, ovvero i batteri. Come? In questo momento si può bulare il frumento, ovvero seminare sul terreno dove il cereale dallo scorso autunno si sta preparando alla levata, una leguminosa come il trifoglio, ma ve ne sono anche diversi altri. Esso si svilupperà senza mai comunque competere con il cereale, che ha diversi mesi di vantaggio, ma fornirà due servizi ecosistemici, almeno due. Uno è tenere a bada le infestanti e, appunto, attraverso i batteri simbionti che vivono sulle sue radici, fissare l'azoto atmosferico e in parte trasferirlo al cereale. Il costo? 5 euro al quintale il seme del trifoglio, per 15 kg a ettaro più o meno, per un totale di 75 euro, tanto per fare un conto a spanne, più la semina, uomo e macchina, ma anche più una serie di altri benefici per quanto riguarda il suolo e la biodiversità. Se invece torniamo al nitrato ammonico, almeno 3 quintali ettaro ci vanno, ovvero almeno 180 euro, ma anche di più. Qui vanno sempre aggiunti i costi di distribuzione, ma anche gli effetti collaterali di lisciviazione e altri costi ambientali. A ognuno la libertà di decidere, agli agricoltori se investire sulla fertilità del proprio terreno, quindi far rimanere in casa tutto il valore dell'attività agricola, o contribuire al PIL e ai commerci internazionali, nonché all'industria petrolifera. Ma c'è un altro livello di scelta, questa volta da parte dei consumatori, che si vedono confrontare con gli aumenti del prezzo di pane e affini. Risparmiare comprando pasta e pane fatti con frumento che proviene dai luoghi del mondo dove costa poco, o almeno sinora costava relativamente poco, e lasciando i conti in sospeso con ambiente e diritti umani, o investire nell'agricoltura locale e gradualmente emanciparsi dai mercati internazionali e dalle loro connaturate incertezze e nefandi effetti collaterali? Tanto per chiarezza, l'attuale aumento del prezzo del frumento non va a beneficio degli agricoltori, ma anche qui, al netto di costi energetici e trasporti, va a chi gioca e specula sui mercati internazionali. Anche in questo caso, tutto valore lontano dalle nostre campagne. Fermentazione e arricchimento dei mosti è il tema della puntata di oggi del professor Roberto Zironi per la rubrica della vite del vino. Il mosto è limpidito ed eventualmente chiarificato, è idoneo a subire il processo fermentativo che lo farà diventare vino. Che cos'è la fermentazione? È un processo condotto principalmente da dei funghi unicellulari chiamati lieviti che, per svilupparsi, utilizzano gli zuccheri del mosto per produrre energia e metaboliti utili alla loro sopravvivenza. Tra i prodotti di scarto del loro metabolismo troviamo l'alcol etilico, che è la molecola che determina il tenore alcolico del vino. Esiste una correlazione diretta tra concentrazione zuccherina dei mosti e l'alcol che troveremo nei vini a fine fermentazione. E al di là di piccole varianti legate all'ambiente fermentativo, possiamo dire che il parametro considerato per legge come tasso di conversione degli zuccheri in alcol è sicuramente quello da tenere in considerazione. Questo coefficiente di trasformazione è pari a 0,6, per cui possiamo dire che un mosto che contiene 200 grammi litro di zuccheri produrrà un vino con 120 grammi litro di alcol etilico, cioè un vino con una gradazione alcolica di 12 gradi, che troveremo indicati in etichetta. In certe annate le condizioni non sono favorevoli alla concentrazione zuccherina dei mosti. Pertanto, per motivi che sono legati a regolamenti sia sulla produzione del vino che delle produzioni di vini a indicazione geografica o denominazione di origine controllata, si può rendere necessario aumentare la gradazione alcolica potenziale naturale per poter essere in linea con quelle che sono le condizioni di legge. Da questo punto di vista, la Comunità Europea permette quindi, in annate eccezionali, una pratica chiamata arricchimento, che vuol dire poter aggiungere delle soluzioni zuccherine diverse a quelle naturali per poter arrivare poi alla fine alla gradazione alcolica necessaria. Per quanto riguarda la zona climatica in cui sono sottoposti i vigneti in Italia, possiamo dire che la gradazione alcolica naturale può essere aumentata sino a un massimo di 1,5 gradi alcolici, che possono essere ulteriormente incrementati di 0,5 gradi in annate fortemente negative da un punto di vista della concentrazione zuccherina. La normativa comunitaria individua quindi, oltre alle condizioni climatiche sfavorevoli per l'arricchimento, anche le procedure di arricchimento. Cosa utilizzare per l'arricchimento? Tendenzialmente possiamo utilizzare quindi saccarosio, mosti concentrati o mosti concentrati rettificati anche solidi, oltre a tecniche particolari quasi l'osmosi inversa o la concentrazione parziale a freddo. Per quanto riguarda l'uso del saccarosio, in Italia non è possibile, quindi tutte le altre pratiche che ho prima elencato sono lecite tranne appunto l'utilizzazione del saccarosio. È un'operazione strategica se si vogliono avere buoni risultati in orto, la scelta delle piantine da trapianto. Oggi Sara Bosco ci dà alcuni consigli. Ci sono alcuni accorgimenti da considerare per non acquistare del materiale di scarsa qualità, in quanto ciò si ripercuoterà sulle sue potenzialità in termini di produzione. Mi vorrei soffermare proprio su alcune colture tipiche di questi mesi primaverili. Troviamo le cipolle, che sono tra le prime colture che possono essere messe a dimora in questo periodo, e la qualità della plantula va considerata in termini di diametro del fusticino, che deve raggiungere i 4-5 mm. Questo vale anche nel caso del porro. I colori delle varietà di cipolla sono già evidenti in questa fase di crescita della coltura. Un altro ortaggio molto presente negli orti è la lattuga. Questa pianta deve presentarsi con un bel fogliame, alto al massimo 6-8 cm, e consistente, mentre l'ipocotile, ovvero la zona tra il colletto e le foglie, deve presentarsi corto e abbastanza robusto. Anche il sedano è una tipologia di coltura che spesso viene messa a dimora in orto e deve possedere un bel fogliame con un'altezza massima di 8-10 cm e un diametro alla base importante. Il sedano rapa si distingue da quella foglia perché già in questa fase ha le foglie di un verde più intenso e con un margine più frastagliato. È importante acquistare delle piantine giovani e di buona qualità, perché quando queste passano dalle serie di allevamento al campo vengono sottoposte a uno stress da trapianto, in cui cessano la loro crescita. Questo periodo varia in funzione delle specie, ma sarà più breve per quelle plantule che saranno in grado di emettere nuove radici in maniera più rapida. Le caratteristiche principali da considerare perciò nell'acquisto delle piantine da orto sono un buon apparato fogliare, privo di foglie gialle, un buon diametro alla base della plantula e un apparato radicale ben sviluppato ma che non ecceda dagli alveoli in cui è contenuto, con la presenza di radici bianche e molti peli radicali. Ogni regione ha la sua ricetta e anche il nome di riferimento. Stiamo parlando dei crostoli che Roberto Zottar ci descrive tra storia e cucina. I dolci fritti sono la cifra del carnevale e tra questi spiccano i crostoli che sono presenti in tutta Italia con ricette simili ma con nomi diversi. Frappe, cenci, stracci, carafoi, chiacchiere, fiocchetti, lattughe sono solo alcuni dei geosinonimi. Nella nostra varietà regionale sono conosciuti come crostoli o crostui o anche rafioi se ripieni di marmellata e accanto a queste forme troviamo le forme slovene flanzati o straube. Presente ad Aquileia sin dai tempi della sua deduzione con le frittiglie romane, rettangoli di pasta cotti nel lardo fuso, erano serviti durante i Saturnali, festività simili al nostro carnevale. Sono dolci friabili sottilissimi, tanto che il maestro Martino, cuoco del patriarca di Aquileia, nel suo recettario di metà del 400, li chiama frittelle piene di vento. Nomen omen, dato che la caratteristica dell'impasto è quella di gonfiare durante la frittura formando bolle d'aria all'interno. E Paolo Santonino, cancelliere sempre del patriarca di Aquileia, nei resoconti di viaggio di fine 400 in Carniola e nella contea di Gorizia, ricorda di aver mangiato delle frittelle che chiama in tedesco Nonnenfürze, letteralmente peti di monaca, termine che viene ripreso da diversi testi rinascimentali e manoscritti di cucina di conventi di area germanica e perdura ancora oggi in Francia con i bignè pet de non, che in Inghilterra diventano nan puffs, soffi o venticelli di suora. Da ultimo si potrebbe ricordare che il dolce è denominato anche bugia, cioè una menzogna o una calunnia, e che questo è un venticello, come ricorda Gioacchino Rossini nel Barbiere di Siviglia, opera buffa composta per il carnevale del 1816. Tutte le ricette si assomigliano, ma piccole varianti negli aromi e nel modo di stendere la sfoglia fanno la reale differenza. Seguendo un famoso pasticcere, impastate quindi 430 g di farina di forza setacciata con 3 uova, 45 g di zucchero, 20 d'olio d'oliva, 15 di aceto, 10 di grappa e 10 di liquore all'anice, la scorza grattugiata di limone e un pizzico di sale. Allargate l'impasto a rettangolo e date due giri di piega a vuoto a 3, come fosse una pasta sfoglia, e lasciate riposare una notte in frigorifero. Tirate la pasta al minimo spessore possibile, all'ultima tacca della macchinetta stendipasta e tirate poi ancora con il matterello. Ritagliate rettangoli e friggeteli in olio di arachidi a 175 gradi fino a doratura. Servite con abbondante zucchero a velo. Buon carnevale e buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 28,30 e 28,50 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo peso specifico 62,65 tra 27,80 e 28,20. Il frumento tra 29,50 e 30 euro il quintale. La soia tra 62 e 62,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 6,60 euro e la soia di 12,30 il quintale. Passando ai bovini da macello si rileva ancora una lieve ripresa delle quotazioni con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,90 e 3,30 euro euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 2,20 e 2,90. Mercato stazionario invece nel settore dei vitelli da ristallo, con le quotazioni che accertano i blu belga maschi quotati tra 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 4,70, i frisoni tra 1,60 e 1,90, i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia la ripresa del mercato dei lattonzoli 30 kg, che vengono pagati franco partenza a 3,10 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello si quotano a 1,35 il chilo. Mercato fiacco nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura viene quotato da 10 a 10,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 e 17,50, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata di stagione oscilla tra 9,50 e 10 euro il quintale. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi diversificati. I poli a terra vengono pagati tra 1,64 e 1,66 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,26 e 3,30, i tacchini maschi tra 2,10 e 2,12, le faraone tra 3,35 e 3,45, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,14 e 2,20, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 17,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Anche a febbraio il tempo sulla regione non si è discostato molto dalle caratteristiche del resto dell'inverno, che hanno visto prevalere lunghe fasi di alta pressione o concorrenti da nord in quota, con conseguente bel tempo, scarsità di fronti e quindi di precipitazioni. Abbiamo infatti avuto solo una perturbazione consistente, che ha portato a metà mese precipitazioni in genere abbondanti, con nevicate anche importanti in quota, mentre tra i 500 e i 1000 metri la neve è stata ben più moderata e al di sotto dei 500 metri la neve praticamente non si è vista. Su bassa pianura e costa le piogge sono state solo moderate. Altri fronti hanno interessato in altre occasioni la regione, ma data la loro provenienza prevalentemente settentrionale, hanno portato precipitazioni per lo più deboli. A livello mensile si constata un forte deficit, attenuato solo sulle prealpi, dove sono caduti dai 60 ai 100 mm. Valori inferiori sul resto della regione, specie su bassa pianura e costa, dove non si sono superate i 30 mm. La temperatura media mensile è stata in genere di un grado oltre la norma sulla maggior parte del territorio. Anche il mare è risultato più caldo, di circa mezzo grado. Il raffreddamento di questi ultimissimi giorni del mese non inciderà sul bilancio complessivo. Un'ultima nota sul vento in quota, che varie volte nel mese ha soffiato forte sui monti, con raffiche spesso sui 100 km all'ora e con picchi di 130. Anche questo febbraio, come spesso è successo negli ultimi anni, ha smentito il proverbio friulano che declama il mese di febbraio come il peggiore di tutti. Oggi e domani un'alta pressione presente sull'Europa centro-settentrionale e una depressione sull'Italia meridionale faranno fluire verso il Mediterraneo aria decisamente fredda proveniente dall'Europa orientale. Sulla costa, in particolare a Trieste e sul Carso, soffia bora decisamente forte. Fino a martedì il tempo rimarrà bello, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, ma di notte farà decisamente freddo, con temperature minime ben al di sotto dello zero anche in pianura. Mercoledì il cielo sarà ancora bello di mattina, ma nel pomeriggio giungeranno consistenti velature da ovest. Da giovedì a sabato rimonterà un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo e il tempo rimarrà asciutto e stabile, ma di notte saranno possibili nebbie in pianura. Minimi attorno allo zero e massime sui 14 gradi. Domenica potrà esserci maggiore nuvolosità, ma come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Da tompe di marzo la gnotte e le di si part, ovvero in autunno e in marzo la notte e il giorno sono ugualmente ripartiti. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitanneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montaldo Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.